sono io che devo ringraziare per l'occasione che mi è stata offerta di parlare di questo volume. E va detto subito, forse che ci sarebbe bisogno di presentare il presentatore, nel senso di chiedersi perché, il perché di questo invito, non me lo sono chiesto, ho approfittato dell'occasione che mi è stata offerta, ne ho ricavato un utile notevolissimo e forse appunto il modo in cui ringrazierò dell'offerta sarà all'altezza dell'offerta stessa, perché approfittando anche della bella e lucida presentazione fatta dal mio dotto collega, mi vorrei concedere la libertà di scorrere come lettore attraverso i saggi di questo volume, alla luce di qualche problema, ecco, di qualche problema che nasce proprio dalla scarsa conoscenza che preliminarmente avevo dell'argomento e delle domande che questi saggi hanno provocato. Domande che ruotano tutte intorno all'analogia e alla distinzione che nella relazione precedente è stata fatta fra il volume degli atti e la biografia, no? Può un volume di atti sostituire una biografia? Questo volume si presenta con un'indicazione biografica, il principe vescovo Johannes Hinderbach, 1465-1486, è un titolo che fa attendere una biografia o qualcosa di simile. La biografia è un genere letterario molto discusso, molto controverso. E io mi chiedo appunto se è possibile usare questo solido volume, che non vuole essere, va detto appunto, una biografia, per ricavare una conoscenza biografica di chi fosse questo vescovo. E per questo mi consentirete la libertà di scorrere tra i vari saggi di questo volume, che intanto va detto subito, è un volume non consueto, di un livello non normale come qualità e come cura da trovare nel genere letterario degli atti di convegno. I convegni se ne fanno molti, pubblicazioni di atti di convegno sono numerosissimi, tutti noi siamo coinvolti come autori o come lettori frequentemente in atti di convegni, va detto che questo volume è eccezionalmente ben curato e di questo bisogna veramente fare i complimenti ai curatori, a Monsignor Igino Roger e a Marco Bellabarba, che offrono un volume solido, sobrio, come si conviene a un libro di storia, con una serie di apparati utili, come ad esempio l'excursus documentario sull'immagine del Simonino nell'arte trentina, edizioni di documenti, per esempio i documenti sugli interessi agiografici dello Hinderbach o sulle compattate, un ottimo indice dei luoghi e un altro dei nomi che mi sono sembrati accurati e che sono un sussidio indispensabile, ma non per questo sempre sicuro da trovare negli atti di convegno. Insomma, un serio e notevole contributo atto a riportare alla memoria questo periodo e questo vescovo che hanno goduto, a quanto pare, di una sorte non favorevole, non sempre favorevole nella memoria storica o negli studi degli storici. Un'antitesi tutta tridentina che percorre la presentazione del volume e numerosi saggi di questo volume è l'antitesi ben presente appunto ai collaboratori, genere di questo volume, tra Hinderbach e Clesio, l'uno familiare, l'uno nome familiare, l'altro non altrettanto familiare. Anch'io sono stato preso in questo dilemma Clesio-Hinderbach, di cui parla per esempio Mariano Welber. Conoscevo il Clesio, senza bisogno, ancora prima diciamo, che uscissero dotti e solidi atti di convegni su di lui, non altrettanto bene. E da questo la mia meraviglia, il mio piacevole stupore per questo invito. Non altrettanto bene, devo dire, conoscevo lo Hinderbach. Esiste forse proprio questa divisione tra chi è noto nella storia che Welber, bontà sua, definisce maggiore e chi è invece noto in una storia minore, in una storia locale. Purtroppo l'ignoranza è tanto meno scusabile quanto più numerosi sono i galloni accademici. e non c'è più una distinzione, non possiamo più trincerarci e difenderci in una distinzione tra maggiore e minore, tra storia locale e storia generale. La fortunata condizione in cui ci troviamo è quella di una storia, di una storiografia che ha perduto il rapporto fra il centro e la periferia, una storiografia in cui qualsiasi ricerca gode di piena legittimità e che si è quindi trasformata in qualche modo in una somma di tante storie locali, localizzabili, localizzate, che non per questo sono più storie minori. Anzi, se si riflette all'importanza che negli studi di storia della Chiesa ha sempre avuto quel 400 in cui tanti processi del secolo successivo hanno una incubazione o si pensa che ce l'abbiano, un secolo in cui si sono cercati lungamente le premesse, l'antefatto, i momenti pre di ciò che doveva avvenire dopo, la pre-riforma, il pre-rinascimento, eccetera, un secolo in cui comunque un certo tipo di vescovo della Chiesa tridentina ha i suoi antecedenti, un secolo in cui i processi di intolleranza anti-ebraica e di esclusione delle minoranze hanno cominciato a mettere le loro robuste radici, la scarsa conoscenza di Hindelbach è ancora più inescusabile. E comunque, poiché è sempre preferibile imparare qualcosa di ciò che si ignora piuttosto che rivedere vecchie conoscenze e aggiornarle, è il caso, mi sono detto, di approfittare di questa occasione e dunque, ripeto, ringraziamenti per l'occasione che mi viene offerta di leggere e di imparare. E allora riprendiamo questo punto della immagine dello Hindelbach, un'immagine assente, il volume, caso eccezionale per un volume a carattere biografico che ruota intorno a un personaggio, non presenta nemmeno nella sua copertina una immagine in senso figurativo del personaggio, c'è un appendice di immagini ben riprodotte in questo volume, in allegato agli studi di Laura Dalprà e di Dominique Rigaud. Ebbene, questa appendice di immagini non è fatta di immagini di Hindelbach, ma di immagini del Simonino. E si tratta certo di immagini alla cui produzione lo Hindelbach si dedicò con straordinaria dedizione, e su questo per forza bisognerà tornare. Si può certo pensare che non poteva prevedere che a distanza di secoli il veicolo a cui aveva affidato il suo nome diventasse ingombrante, fonte di problemi, sgradevole. Certamente non poteva immaginarlo, ma sapeva, nell'investire tanta attenzione in questa direzione, sapeva che quel veicolo era un veicolo importante, in questo bisogna dargli atto, era un veicolo di fama, di celebrità, una impresa importante a cui legare il proprio nome, e tutto si può dire fuorché che lo Hindelbach abbia mancato di decisione e di forza nell'insistere in questa direzione. Ma quello che volevo dire è che l'immagine sua ci è poco conosciuta. E questo mi sembra un fatto, come dire, per usare un'espressione vieta, un fatto emblematico, in questa ricerca di una identità biografica del vescovo Hindelbach, che ci costringe ad un'operazione che questo volume rende possibile, cioè la ricerca di frammenti di conoscenza, una conoscenza che per l'opera stessa, per i caratteri stessi dell'opera di quest'uomo, è forzatamente frammentaria, ricuscendo questi frammenti cercare di ricostituire una identità plausibile, o comunque chiederci almeno perché questa conoscenza sia legata soltanto a dei frammenti, perché l'immagine non campeggi, decisa né nella tradizione né dei testi dello Hindelbach né nelle immagini che egli stesso poteva commissionare e in parte anche commissionò. Torneremo anche su questa questione dell'imbarazzo di cui parla per esempio Catherine Walsh nel suo contributo sulla eredità tardo-medievale e germi dell'umanesimo nella formazione culturale di Johannes Hindelbach. Intanto va detto appunto che questo episodio a cui il vescovo lega il suo nome come è stato già illustrato, non è un episodio isolato, non è un episodio eccezionale, talmente poco eccezionale che si può dare il caso che altri episodi della stessa epoca, della stessa area, abbiano poi ricevuto l'impronta del caso del Simonino fino ad esserne assorbiti, e soltanto una ricerca attenta permetta di ridare loro dei tratti distinti. È il caso, per esempio, di quella stampa relativa al caso di Porto Buffolè nel Veneto, che qui appunto Giovanni Dell'Antonio riporta al caso specifico a cui si riferisce, mentre invece in una pubblicazione precedente, qui citata, il saggio di Evelina Borea nella storia dell'arte in Audi, era stata additata come un'immagine del caso del Simonino. Ma appunto basta pensare alla fioritura di casi di questo genere, su cui mi permetterò un attimo di tornare in conclusione. Dicevo comunque di questa possibilità di scomporre e ricomporre questi studi per capire come si arrivi a questo esito, per cercare cioè di capire chi fosse Hindelbach, quali le sue idee politiche, quali le sue idee religiose, perché nel rapporto tra realtà e finzione è evidente che l'immagine del Simonino da lui creata è una finzione, che ci dice però qualcosa, come tutte le finzioni, sulla realtà di chi l'ha creata. In questo senso, sia ben chiaro, non intendo riaprire qui il dossier recentemente studiato da Diego Quaglioni, da Anna Esposito, al quale i collaboratori di questo volume aggiungono messe circostanziata di ricerche ulteriori, ma nello sfogliare gli studi qui raccolti, e dei quali sarà difficile fare una presentazione, non dico esauriente, ma nemmeno tale che apprezzi al giusto il loro lavoro, mi sembra possibile raccogliere queste indicazioni seminate dai loro autori verso questa individuazione della fisionomia culturale e religiosa di un personaggio che rimanda sempre a elementi oppositivi, no? Si sono sentiti alcuni titoli che rimandano da un lato alla tradizione precedente, al mondo che noi chiamiamo medievale, dall'altro rinviano all'umanesimo, a ciò che doveva seguire. Ecco. Strutturalmente il volume si conclude, e non mi pare un caso, diciamo, nella biografia accennata, nel filo biografico a cui si connettono i saggi e gli interventi di questo volume, non mi pare un caso che la sezione conclusiva, su cui si è soffermato il mio collega nella relazione precedente, sia dedicata proprio al caso della vicenda del Simonino, che così appare come un esito non limitato, non casuale, certo misterioso, no? Nelle sue cause, sia stata la paura dei cristiani, la loro attesa della fine del mondo, ma come nota Paolo Eckhart discutendo la tesi di Obermann, non ci sono tracce, per esempio, di attese simili nei testi trentini intorno al caso del Simonino. Comunque appunto non casuale il fatto che il volume si concluda qui, il che pone il problema del perché questo secolo, di volta in volta visto, questo secolo e questo personaggio, di volta in volta visto come aperto all'umanesimo o percorso da una profonda paura e rifiuto del diverso, sia il secolo che vede il Malleus Maleficarum, la consacrazione giudiziaria del paradigma del Sabba, insieme a tante altre cose dello stesso genere. Ma seguiamo le cose dall'inizio, cioè se permettete riprendiamo un attimo dalla formazione del vescovo Hindelbach, e qui abbiamo una grande abbondanza di fonti, non solo scritte o a stampa, ma anche fonti figurative, e queste fonti si offrono appunto ad una lettura in termini di opposizione tra l'eredità di un mondo che muore, una volta si diceva medioevo, l'autunno del Medioevo, e un mondo che nasce, l'umanesimo, rappresentato da un nuovo gusto, il nuovo gusto italiano, toccato, conosciuto, praticato da Hindelbach. È un'opposizione che qui emerge come anche un'opposizione interna alla realtà trentina e interna poi allo stesso personaggio che qui è al centro degli studi. Esemplare, per esempio, mi sembra il caso dei codici musicali trentini, per prendere una documentazione che sembrerebbe a prima vista marginale, che invece qui, studiati nel contributo di Terenzio Gnemmi, ci permettono di seguire la crisi di un gusto tardo medievale, d'autunno del Medioevo, dall'autunno medioevo di cui parlava Huizinga, il gusto per la polifonia fiamminga, anglo-fiamminga, l'esaurirsi, la crisi di questo gusto, nell'esaurirsi dell'opera del rettore della cattedrale, Johannes Wieser, uomo legato a Hinderbach. Quindi già in questa documentazione, certo non facilmente collegabile ad una intelaiatura esclusivamente biografica, già in questa documentazione noi vediamo lo scomparire di un mondo, l'emergere di un mondo nuovo e questo personaggio che è legato anche soltanto da rapporti di committenza da rapporti molto mediati alla scelta fra questi due gusti. Ma a parte queste notazioni di ambiente, ecco, chi era questo Hinderbach? Sembra chiaro dagli studi qui raccolti che il vescovo Hinderbach si distinguesse per una idea del potere, del suo potere e del potere in genere, alta e severa, come derivante direttamente da una fonte, per esempio dall'imperatore, e si trattasse di echi di un'esperienza giovanile della corte e del potere imperiale o di una formazione universitaria, non c'è dubbio che le idee dello Hinderbach rinviano a un ideale imperiale radicato nella tradizione germanica e fonte di quel potere che egli cercava di esercitare nella società trentina. Il bel saggio di Marco Bella Barba, sulla Ius Feudale Tridentinum, la dottrina giuridica e il governo temporale, ci aiuta validamente a penetrare in quella che lui definisce mistica imperiale, che costituisce il clima a cui lo Hinderbach si assuefece e di cui parlano continuamente i suoi documenti, le sue tracce, queste tracce fatte di frammenti, fatte di frasi segnate a margine di manoscritti, questo bisogno continuo o singolare di segnare con la propria presenza, con la propria cultura, col proprio giudizio i libri che gli capitano fra le mani, e questa invece assenza di un luogo proprio dove questa cultura, questa personalità si esprimano a tutto tondo. In questo si trova, mi pare, in questa formazione politica, in questo mondo di riferimento per i valori politici, si trova un filo che unisce, mi sembra, i due livelli della documentazione lasciata da Hinderbach, quello degli atti ufficiali e quello appunto delle glosse infinite lasciate da lui sulle sue letture. Questa sua concezione sacrale dell'autorità imperiale rinvia all'esperienza di corte, all'ambiente di giuristi in cui era cresciuto, le sue fittissime note alle recollecte, dove annotava, come Bella Barba ha mostrato, con competenza, quasi assaporandone il fascino, annotava l'elenco minuzioso delle dignità in cui si articolava la curia imperatoris. Sono veramente notevoli quelle glosse, per esempio, in cui ribadisce che tutta la Germania et omnem eius populum si erano sostituiti al romano popolo, e che Carlo Magno non era franco ma teutonicus, e che per lo più aveva vissuto in Alemagna. Sono note nelle quali giustamente Bella Barba non cerca tanto originalità di pensiero politico, mi pare, quanto piuttosto un orientamento, il segno di un fascino esercitato su di lui da un mondo di idee e di rappresentazioni mentali. Parla Bella Barba di una concezione imperiale trasognata e magica, quell'immagine dell'aquila, hoc est imperialis celsitudo, l'idea dell'ordinazione sacra dell'imperatore, questa nozione della sacralità, del potere imperiale, e l'incontro di queste idee così solenni ed elevate sulla potestà della potestà imperiale con la realtà dei poteri di un vescovo a Trento non dovette essere certamente facile. Il contributo di Severino Vareschi, liquidazione di un abate e di un vescovo, si sofferma sul caso di Benedictus Odorici, sulle vicende che si svolsero sullo sfondo di un personaggio come Alessandro di Masovia, penso a questo proposito anche alle ricerche di Jan Vosch, un momento ribollente di conflitti in una fase difficile dei poteri all'interno della società cristiana. Ora, sul comportamento e sulle linee dell'azione di Hinderbach nel suo episcopato trentino, i saggi di questo volume portano molte informazioni, ma nessun ritratto complessivo, nessun profilo d'insieme, tanti tratti particolari da connettere, come se si fosse deciso di tracciare un identikit con la collaborazione di tante mani, senza che nessuno disponga dell'immagine complessiva, che dunque viene disegnata nel suo insieme solo dal lettore, combinando i contributi. Ed è questo appunto che viene spontaneo fare, tanto che sto cercando di raccogliere le mie annotazioni in questa direzione. Un primo elemento significativo per il personaggio Hindelbach come uomo di chiesa, al di là della sua educazione politica, un elemento che viene sottolineato è quello del modo in cui intende e pratica la dignità episcopale, la residenza. Caso non consueto, Hindelbach risiede a Trento e vi si adopera in un'attività di gestione ordinaria della vita sociale, culturale, ma anche economica e infine anche religiosa. E per quanto riguarda la concezione del potere del vescovo, qui siamo davanti ad una derivazione dal potere imperiale. Varanini nota ad esempio che la rivendicazione di poteri di giurisdizione civile e criminale avviene in forza dell'argomento di una superioritas concessa dall'imperatore. E la serie dei vescovi principi di Trento, affrescata nel Castello del Buon Consiglio, mostra con evidenza immediata questo rapporto tra vescovi e imperatori come un rapporto fatto di dipendenza e di protezione, di successione parallela. Niente del genere sarebbe poi venuto in mente per esempio al Brusazzorzi nel dipingere un'analoga serie nel Palazzo Vescovile di Verona nel secolo successivo. E dunque, a poca distanza di tempo e di luogo, una discriminante che si direbbe imperiale e tedesca passa attraverso questa duplice rivendicazione della successione episcopale e della rivendicazione della successione episcopale e della identità della Chiesa locale. Del resto, l'analisi che la Longo, ad esempio, fa delle arti figurative a Trento in quest'epoca, pur accennando a un motivo di svolta verso l'Italia nelle imprese artistiche prodotte sotto la direzione di Hindelbach, conclude segnalando, cito, il gusto germanico e tardo medievale della tavola che reca unica il ritratto del committente. Io ho parlato di un'assenza delle immagini del vescovo, c'è una immagine e questa immagine viene spontaneo catalogarla in un tipo di gusto che appartiene più al mondo che muore che al mondo che nasce, come si è detto. Un vescovo riformatore, si direbbe, nella lotta contro il concubinato del clero, nella collazione dei benefici studiata per esempio nel contributo di Daniela Rando, dove sembra importante questa introduzione del registrum presbiterorum per controllare il movimento del clero, i preti forestieri. Questo interessante riferirsi alle vicinie come momento sociale di controllo sui costumi del clero, ecco, sono elementi che non arrivano fino al punto di far parlare gli autori di un vescovo riformatore. Che cosa sarebbe stato di più facile che lasciare attirare questo personaggio nella scia di ciò che doveva venire, vedere in lui un preriformatore, forse in altri tempi lo si sarebbe potuto fare, vederlo come un antesignano di un episcopato residente riformatore che doveva, col Concilio di Trento, essere proposto come modello generale all'episcopato, oppure accostarlo a qualche altro personaggio di questi anni, del resto qualche personaggio di vescovo riformatore lo si poteva trovare sia nel mondo italiano che nel mondo tedesco, e tuttavia tutte queste note mi pare non approdano ad una definizione piena di questo genere. C'è una certa reticenza, c'è un certo imbarazzo. Perché? Ma si parla piuttosto, colgo una definizione, di un amministratore puntiglioso. Non mi pare una definizione che sia di piena simpatia col personaggio. Questa presenza continua, quasi ossessiva, del vescovo in tutte queste note di amministrazione dà questa impressione. Simili elementi di incertezza mi pare che emergano anche dall'attenta, accurata, interessantissima analisi che Monsignor Eugenio Roger fa degli interessi agiografici del vescovo, un vescovo erudito, dotato di un certo senso critico, di una forte attenzione ai luoghi della santità trentina. E anche qui però si parla di albori di una ricerca umanistica sui santi, albori dunque. si rinvia ad altro momento la nascita di un senso storico, di un'attenzione alla verità dei documenti, di una critica delle tradizioni agiografiche, che non doveva essere così lontano, diciamo, il gusto e l'attenzione ai fatti storici che del resto Hindenburg avrebbe potuto ricavare anche dalle sue conoscenze italiane di tipo umanistico, da una pratica, da una frequenza di letture umanistiche di cui aveva occasione di occuparsi, ma che non gli permisero di andare al di là di un certo livello. Un antiquario di nazione germanica, dice Welber, anche se aperto alla nuova cultura italiana, cito queste due espressioni, aperto ma con perplessità e con angustie evidenti, come ad esempio nel suo incontro con Flavio Biondo. Ma per quanto riguarda la santità, è inevitabile che noi ci imbattiamo nel caso della costruzione di un santo, la costruzione di un santo trentino, che conclude appunto questo volume, e che è il momento in cui tutta una serie di tracce precedenti sembrano arrivare al loro appuntamento, a una specie di appuntamento segnato dal destino. L'interesse per la santità trentina, il rapporto di cura quotidiana con una chiesa, la gestione di luoghi, di chiese, il loro riattamento su percorsi di pellegrinaggio che vedevano Trento come luogo di passaggio, un'occasione eccezionale per fare qui qualche cosa che resta qui e al quale il vescovo lega il suo nome. E proprio in questo caso, nella costruzione di un santo trentino, lo Hindenburg rivela le sue doti di organizzatore paziente, di animatore ardito e deciso di attività intellettuali altrui, commissionate da lui, gli inviti a Lonzo Venzoni, a Giovanni Tiberino, a cui si riferisce Chemelli, studiando la produzione libraria in ambiente trentino, e l'introduzione della stampa a Trento non avvengono per introdurre la cultura umanistica, ma per sfruttarne le capacità di divulgazione e di propaganda, con una sicura distinzione tra una cultura per pochi, nella bellezza dei codici ricercati e annotati, e un veicolo per guidare le idee dei più. E nella stessa direzione mi sembra porti lo studio di Dall'Antonio sul rapporto che Hindenburg ebbe con l'architettura, la conoscenza di opere della nuova cultura umanistica, come il De Pittura dell'Alberti, la curiosità che una sua nota fa vedere, emergere, verso l'affiorare del nome di Vitruvio, letto equivocando nell'iscrizione veronese, non bastano tuttavia a fare di lui un uomo della nuova cultura. Prevale un interesse suo di carattere pratico nel riattare chiese sui percorsi dei pellegrinaggi, nell'inventare poi nuovi centri di pellegrinaggio e nell'approfittare del caso che la sorte gli ha offerto dello straordinario successo del martire bambino. E una traccia di quella straordinaria determinazione e vigoria di cui Hindenburg dette prova nell'intera vicenda, una traccia che si trova già nella gestione degli interventi architettonici, e le tracce a questo riguardo sono praticamente infinite. Anche il documento che Ronny Pochiasia ha reperito in New York è una prova della campagna propagandistica lanciata dal vescovo, campagna alla quale arrise uno straordinario successo, come mostra Anna Esposito parlando della diffusione italiana del culto del Simonino. Certo, va pur detto che Hindenburg da solo non poteva dar vita a una storia del genere. E qui lo studio biografico tocca evidentemente i suoi limiti e deve rinviare ad altri studi che ci diano la risposta del perché certi fatti suscitassero un'eco così profonda. In questo Hindenburg evidentemente ha un ruolo di protagonista in subordine ad una tendenza più generale che lo coinvolge, quindi non si tratta, partendo da una sensibilità diversa, non parlerei di un progresso generale, che è sempre difficile da dimostrare, di impiantare un processo a questo vescovo che traduca in un atto di accusa l'imbarazzo nel vederlo coinvolto in un'impresa di questo genere. Ma non si tratta nemmeno di eliminare questo tratto che tutti i documenti relativi alla storia di cui si parla mostrano, questo tratto cioè di una sua presenza ossessiva, continua, di chi è convinto che questa è un'occasione importante. Ha ragione Eckert insiste sul fatto che il processo contro gli ebrei è un documento che va letto per capire cose più ampie, non per rovesciarlo in un processo al vescovo, per capire per esempio che cosa i cristiani trentini pensavano degli ebrei. Le testimonianze storte agli ebrei ci raccontano esattamente non quel che pensavano i poveri imputati, ma quel che pensavano i loro giudici, dando voce a sentimenti, paure, odi radicati profondamente nell'immaginario cristiano dell'epoca. Ma se c'è una lezione che si può trarre da tutto questo volume, col suo attento raccogliere le tracce lasciate nelle glosse marginali, negli appunti, nelle annotazioni, è proprio quella di una lettura aguzza, attenta dei frammenti di testimonianza che il passato ci lascia, senza cedere alla tentazione di rinviare a spiegazioni che tutto spiegano e che niente chiariscono, come quella famosa genericità di mentalità collettive, di tendenze globali, di tendenze dell'epoca. Mi pare che molto giustamente gli autori di tutti questi saggi siano stati uniti da una attenzione alla raccolta delle tracce fatta con grande cura, fatta con metodo critico, senza mai stemperare in affreschi e colori di fondo il valore della singola testimonianza. La lettura puntuale, attentissima, di glosse e appunti vale proprio per cogliere il tratto individuale, la scelta personale di un uomo in un dato momento. Su questo concluderei rilevando come lettore appunto l'interesse dell'analisi per esempio a cui Quaglioni sottopone questi documenti, grazie a lui riportati alla nostra lettura, e segnalerei per esempio il modo in cui sottolinea finemente il peso della scientia principis in questa cultura giuridica nel determinare l'arbitrio processuale. Come dire, questi documenti fanno una certa impressione perché si rinvia alla scientia principis per giustificare abusi delle norme processuali vigenti, quindi caricando sulla scienza e sulla coscienza del principe, in questo caso di Hindelbach, la ragione di ciò che è avvenuto in questo arbitrario uso della tortura e nel giustificarlo. Scienza e coscienza, qui intesa naturalmente, mi pare, nel senso di conoscenza, di consapevolezza, di pieno esercizio, di pieno e consapevole esercizio di un proprio potere. Eppure, per i giochi strani della storia, proprio sulla coscienza del vescovo sembra poi dover poggiare l'intera impresa. Questa sua decisione, questa sua ferma e decisa intenzione di imprimere un certo orientamento alla vicenda, che emerge del resto da quell'intervento sul manoscritto dell'anonimo Consilium, che sosteneva un punto di vista favorevole agli ebrei e a lui contrario, e che Hindelbach corresse rovesciandone l'inizio in Christi nomine, che diventa un anti-Christi nomine. Ecco, è un caso esemplare, no? Della personalità di un uomo che si rivela in interventi di questo genere, interventi apparentemente minimi, ma in cui una personalità si esprime. E questo correggere il Cristi in anticristi dà la misura del suo sentirsi in coscienza dalla parte della ragione, della sua determinazione nel perseguire questa impresa, passando oltre i formalismi della legge, andando dove la sua coscienza lo conduceva. E certo, a questo punto il dilemma epocale che segna il titolo del volume, Tardo Medioevo e Umanesimo, si ripropone, nel senso che propone a noi lettori la domanda se sono queste le tracce di un'epoca buia, secondo una vieta caratterizzazione dei secoli che arrivano fino alle spalle di Hindelbach, o se invece qui non si sia davanti all'apertura dell'epoca nuova che di lì doveva cominciare. E allora viene voglia di rileggere tanti altri interventi di vescovi come Hindelbach, convinti di dover guidare il loro popolo, convinti di dover esercitare una guida pastorale che portasse l'intero loro popolo alla unità della fede, albergare nell'unico ovile dell'unico pastore, e viene in mente che in fondo la tradizione degli interventi vescovili o che vogliono rafforzare il potere del vescovo nella tradizione di quella che fu poi chiamata la tendenza di riforma cattolica, sembra segnata da un consenso sostanziale in questa direzione. Non si tratta quindi tanto di allargare il caso del Simonino agli episodi tardo-quattrocenteschi che determinarono l'avvio dell'Inquisizione spagnola, ma si tratta di estendere lo sguardo a tutto il mondo cristiano europeo dell'epoca, pensando per esempio all'enfasi con cui in un celebre documento come il Libellus ad Leonem Decimum di Querini e Giustiniani, redatto negli anni del Concilio Lateranense V, l'enfasi con cui si insisteva sulla necessità di affrettare la costruzione del solo ovile sotto un solo pastore, ponendo al primo punto la questione ormai non più rinviabile della necessaria conversione degli ebrei, che dovevano essere posti seccamente davanti all'alternativa del convertirsi o del essere cacciati, e questo da parte di due pii monaci, personaggi centrali di un movimento che doveva trasformare il volto della Chiesa cattolica e portarlo a assumere tratti che riconosciamo come tratti moderni di serietà, severità, preparazione e così via. E questo è per dosare, diciamo, dare il giusto dosaggio di problematicità a queste etichette alle quali sta appeso il nome di Hindermatt, tardo medioevo e umanesimo. Non mera indicazione cronologica, ma segno di una tensione tra vecchio e nuovo, un nuovo che però appare costituito dal terribile secolo XVI, con le sue lotte religiose, con la sua spinta alla unificazione religiosa e alla cancellazione dei diversi, tutto ciò che appariva diverso, intollerabilmente diverso alla società cristiana. Tempi lontani, come tutti ci auguriamo. Grazie.